ci siamo andati. Il telefono. Comunque quella è questione. Attenzione, dici qualcuno? Attenzione, dici? Qualcuno all'ascolto? C'è qualcuno in frequenza? Canale 10, 27075. Qualcuno all'ascolto? Silenzio di tomba. Oi, oi, oi. E vai, pedivella. C'è rotta la pedivella. Rotta si è. Eia, c'è rotta. Anzi, gliel'ho fatta di legno. Cioè, se tutto va bene siamo rovinati. Ehi, rovinati, ce lo siamo. Ui, ui, ui. C'è un caldo fuori, 32 gradi ci sono ancora. Cazzo, sono le 6 e 10. E già messo qualcosa da stamattina. E sono andato alla posta, sono andato a pagarmi l'assicurazione della macchina, mi si è rotto lo spruzzino, il motorino dello spruzzino dell'acqua, no? Avanti, Guta, 70 euro. E tocca togliere tutto il passaruota della macchina perché è sotto lì. E già lo so, c'è nella vaschetta, è attaccata la vaschetta dell'acqua, capito, il motorino. È un casino. Un casino, lo zoppo rimpina. Cazzo, appena ritirata la benzina e mi danno i miliardi di tutti i. Ah, ho preso il 15. No, la pensione, il 15 prendo quell'altra cosa se me ne danno. Ah, nego. Va bene, va bene. KK, tu hai detto il 15. Ok. Ui, cazzo, va caldo che c'è fuori. Ehi, già lo so. Stamattina mi sono messo una felpa, no? Perché ho detto, sai che ci sia freddo, che dovevo andare alla posta, dovevo andare. Cazzo, qui era un caso, guarda, pauroso. Chi su bancomat, chi non si vedia un tubo da rusore chi vira. A me mi ha sfasciato due termometri. No, dottore, la febbre ci avevi. Ho cambiato il termometro pensando che stesse dentro i numeri, perché la temperatura era esagerata. Ne ho messo un altro che c'ho proprio da un'altra parte, niente a fare, salito anche quello. Ho preso l'orologio che c'ho qua, che è abbastanza preciso, digitale, col termometro. L'ho messo fuori, a momenti mi sfascia l'orologio. Segnato roba di 45 gradi, è una cosa pazzesca. Portoncino blindato non si può toccare, ti bruci. Ehi, alla faccia. Guarda, se è una cosa da... neanche io ci credevo, ho detto sono rotti. Li ho messi dentro e sono riscesi di colpo. Metto fuori, mi sta anche, siccome è cristalli liquidi, stanno iniziando a comparire tutti i sottofondi anche, no, dei cristalli liquidi. L'ho tolto subito, se come lo sfasciava. Lo so, è così purtroppo, vabbè. Ascolta Gianfra, non è che hai per caso della Dunia sempre del 508, della Vale 508, cavettino, qualche altro cavettino Icom, no? Cioè, si è rotto il clip, quindi non aggancia più, capite? Non è che ce l'hai qualche uno pronto, no? Non riesco manco più a trovarlo, non solo che l'ho messo, si era rotto il gancio, l'ho messo da qualche parte e non lo trovo più, e non riesco ad usare il microfono di tavola. No, l'ultimo, a chi l'ho trovato l'ultimo? Lo sai, non me lo ricordo, a qualcuno l'ho dato ma non me lo ricordo più. E per la crepe bisogna tagliare i fili e ricrimparla, tutto lì. Sì, se lo trovassi, te l'avrei dato. Non lo trovo. Infatti ho chiesto anche a Natalino, facciamo la velocità a lui, perché io, lui me ne aveva prestato uno e l'ho restituito, facciamo la velocità anche quello. E invece niente, non riesco a trovarlo, non so il piatto è andato a finire. E vabbè, pazienza, cosa vuoi che ti dica? Qual era? Per il come mi ha detto, quindi dalla parte c'era la farina in plastica, che adesso l'hanno impigliata in domo, stiamo a fare in plastica, e dall'altra c'è il classico 8 pin che è in W2 ICOM. No, ICOM deve essere. Quello che avevo era Kenwood, l'aveva invertito Andrea, poi avevo rimesso a posto Kenwood, mi avevo fatto prestare quello da Natalino, però non l'ho usato e quindi l'ho restituito, capito? No, non deve essere ICOM. Nella wire c'è il clip, ok, ICOM, però deve essere ICOM, il cavo deve essere ICOM, perché se non bisogna mettere l'adattatore e fa quel rumore di vento che tu senti, capito? Invece deve essere ICOM, proprio ICOM. Allora vabbè, diretto. Sì, io ho fatti tanti ICOM, so benissimo, diretto, infatti anche me sono, andiamo un po' più avanti, se te lo dico subito, non si faccia tutto, folle, allora, sì, ICOM, sì, questo è ICOM, stessa pirinatura, stesso clip. Guarda, al massimo te lo potrei ricrimpare, perché ce l'ho, io li uso per farmi i capelli rette, quindi c'ho la crimpatrice. Io ho il pezzo del filo e con l'RJ45 già, però ci vuole quella 8 poli, là, perché lo spinotto lo usa cosa, quella 8 poli. Non sei uscito da lì, non ce n'è autopoli a Sassari, sono andato anche stamattina, non sono arrivati, Fusaro non ne ha, la GBC non ordina più niente, e la benda Murisa, no, Gianfra, cosa devo clippare io? Da giù non vado nuda, non trovo manco il cavetto, se avessi trovato il cavetto te l'avrei dato, me l'avresti clippato perché il connettore è già attaccato, non trovo più manco il cavetto. Io ho il cavetto con il RJ 45 già intestato, ci vuole solo lo spinotto 8 pin, perché io l'avevo tagliato per farmi un'altra prolunga, l'avevo messo, ho fatto la prolunga dell'MC60 e mi serviva un 8 pin, ecco perché l'ho tolto da quello ICOM. Ho capito, no, ma non è un problema quello. Non c'ho niente, Gianfra, non lo trovo più. Ho il microfono dentro l'armadio, non trovo più il cavetto. Guardate nei cassetti, dove metto il cavetto, non lo trovo. Non so più che fine abbia fatto. O l'ho dato a qualcuno a farmelo cambiare, non lo so. Comunque, sta fatto che non c'ho più niente. E c'ho solo il microfono senza il cavetto. Capito? Siccome è clippato, se fosse stato normale, pin to pin, l'avrei fatto, piano piano l'avrei fatto, ma io clippatrice non ne ho. Sì, allora, ricapitoliamo, tu hai perduto tutto il cavetto da quello che ho capito, perché io la clippatrice comunque ce l'ho, quindi se c'è il cavo col connettore lo potrei crimpare, sempre che il cavo sia là. Se invece hai perduto tutto, connettore compreso, io ho connettore e i plug, gli RJ, i così chiamati, RJ45, che sarebbe quel connettore che si infila dentro il microfono, e quelli non ci sarebbero problemi. Il problema è che io non ho il cavo adatto, cioè ce l'ho ma sarebbe grigio, non lo so se va bene, perché in fase di crimpatura il cavo non si fa piccolino, che deve entrare dentro le canalette per poi essere pressato, è tutta una piena. E quindi niente, se ci potrei provare a farlo, tanto non c'ho problemi sui collegamenti con. Però connettori a 8 io ne ho del latte, sia maschi sia femmine. Allora il capo ve lo do io con l'RG45 già intestato, gli devi solo collegare lo spinotto a 8 pin, Gianfra. No, non va bene quello, non va bene, non va bene, l'ho provato, non va bene. Non lo so, a me me l'aveva fatto Gianfranco, ho perso proprio quello corto che mi hai inviato tu Gianfranco, quello a 30 cm, quello lì ho perso. Avevamo invertito le connessioni, Andrea aveva invertito le connessioni, da Kenwu da Icom, non andava bene, l'ho rifatto portare da Icom, ma Kenwu da Bu, non so, non so dove l'ho messo. Allora innanzitutto dimmi l'apparato, perché se te l'ho fatto io di testo sull'Icom prima di darli, su che apparato deve andare? IC820H, il di banda della Icom, quello base. Aspetta che lo controllo un attimino, questo non lo sento. La base, quindi aspetta, mamma, c'è un altro secondo, che casino. Allora, IC820H, è come il 140, una cosa del genere, qui banda della Icom. OK, adesso vediamo se è uguale ai miei piedi, la piedinatura è un attimo. Sì, me l'avevi fatto, me l'avevi dato tu, andava benissimo, evidentemente era uguale, non lo so, vabbè. No, tienilo quello, Natali, che poi c'è il mio, già me lo faccio fare da Gianfranco, poi mi arrangio con lui, glieli prendo io appena arrivano un paio di connettori, glieli do col cavo. Ma cosa, che io li prendo a colpi di 20 da Amazon, costano 4 soldi, cosa mi dai? Aspetta che sto cercando la pianta se corrisponde alla classica, che ce l'ho anch'io, così vediamo un po'. Prova a vedere, ma ti ripeto, me l'avevi fatto tu, quindi sicuramente già corrisponde. Sì, corrisponde, è la stessa. Sono, quindi a te te ne servono 1, 2, 3, 4, 5, 6 cavi. E guarda, se ce l'ho il grigio, se ce l'ho il capo è grigio purtroppo. Se me la fu, devo attaccare il microfono e poi è sotto la radio, non si vede. No? Cosa me ne frega Gianfra? Perché sono 6, a 6 più il down e up, quindi sono 8. No, uno è l'uscita audio, nel caso ci metti un microtelefono, che è quello centrale, e l'altra è lo squelch che non te ne frega un tubo, e quindi rimangono solo il mic input, che è l'uno, gli 8 volt, qua mette 9, ma in realtà sono 8 volt su tutti gli apparecchi nuovi, perlomeno, che è il 2, il loop down che è solo un piedino, e sono un piedino perché hanno il sistema resistivo, poi ci sono due terre, ma basta anche una, e il PTT, non c'è altro. Vabbè, tu sai come farlo, ti ripeto, me l'avevi già fatto e andava benissimo, poi io l'ho cambiato da Icom a Kenwood, non ci vedo più nulla, il problema è che non riesco manco a trovarlo, tutto lì, la ditta. Vabbè, va bene Gianfra, se ti capita che hai tempo, fammelo, poi magari ci sentiamo per telefono, ci vediamo e me lo dai. Sono disperato, non posso usare quel cacchio di coso, non trovo il cavetto, connettori a Sassari non ce n'è, si è venduti i biliardi e quindi niente. E devo usare l'Adonis con l'820H perché il microfono normale è una rottura di balle, capito? Guarda, Clau, dato che stai sempre appresso a questi microfoni, prenditeli da Amazon una scatola intera, se ne danno 20, 10 maschi e 10 femmine da pannello. E così non stai lì a andare, ti paghi meno di quello che tanto te lo vendono, o perlomeno se ne prendi 10 c'è un tempo qua. Io sono andato a chiedere delle cretinate da su, no, nella parte alta per intenderci, e ho trovato a lui seduto su un giornale, e ha detto guarda mi serve questo componente, cioè, no, tra 3 miliardi di scatole, no, componenti no. No, non conviene, no, non ne fa più nessuno di questi lavori a Sassari. Neanche i riparatori, no, i riparatori si forniscono fuori anche all'estero. Andiamo, ho capito, grazie, ciao. Guarda, è una cosa micidiale. Sono andato l'altro giorno, è uscito fuori nel gradino del negozio, tutto mio e mio, quei vetri, ci sono anche le rane a terra, tutto in terra. Ma per carità di Dio, un mondo assaio, era così bello quando l'ho conosciuto io, però lui con tutto che ha avuto, quando è morta la moglie, no, non è servito più Tonio, non è servito più poverino, se no era una bravissima persona. Avanti Natali. E infatti. Io l'ho tolto proprio perché non ce n'è di quelli a autopin a Sassari, ecco perché. E allora me l'ho tolto, lo spinotto mi ha fatto la prolunga per le mici 60, così lo spiralazzo, me l'ho tenuto di scorta, lo sai che si rompe, no? Allora me l'ho tolto e mi ha lasciato la prolunga, ed è una bomba, hai visto? Sì, anch'io c'ho quello che mi ha fatto Franco, quello spiralato l'ho conservato, capito? Non si sa mai, nel caso dovessi dare un 60, mi tengo quello mi ha fatto Franco dallo spiralato, perché quelli sono molto molto meglio di questi spiralati, si rasengheggiano, non servono più a niente. Vai Gianfra. Guarda, ne ho controllato, adesso ne ho 8 di quelli da autopin, dalla Kenwood, poi ce n'è qualcuno anche da 5 se non ricordo male, e 8 di quelli femmina, la pannella. Adesso devo andare in deposito, un attimino, se controllo 5 metri ti va bene la lunghezza del cavo? Sì, 5 metri, a me batte e funzioni, anche se 5 metri lo arrotolo e lo metto a parte, vuol dire che mi metto il microfono sopra il comodino del letto, come fa qualcuno. Ah, per quello ti fa un attacco Bluetooth e funziona lo stesso. Vabbè, quanto lo vuoi? 10 centimetri, 3 centimetri? Come l'altro, 20, 30 centimetri, cosa? Non le fa niente Gianfra, non le fa niente, fallo da un metro, vedi tu, non mi interessa la lunghezza, non mi interessa la lunghezza, se vuoi mettere la radio sopra puoi farlo anche da un metro, va bene lo stesso, 50 centimetri, un metro, quello che vuoi farlo. Ah beh, guarda, l'importante è che il tipo di cavo che ho entri dentro il coso. Adesso ne prendo uno spezzone e lo controllo, ok? Sì, ti ho capito, ma l'altra volta sì che entri dentro il tipo, se no non fa. Va bene Gianfra, fai tu, dai, poi fammi sapere, già sono qua. Vado e torno, riprendi Nata. Cappa. E infatti io, proprio perché non entrava quel cavo grosso, l'avevo dato a Franco un pezzo, sarà stato un metro, per farsi la prolunga anche lui, no? Io l'ho fatta da un metro, ed è veramente di lusso, sì, non mi va riviru. Prego. Gli è stato il break. Sì, ma infatti te lo sto dicendo Natali, quello che hai dato già a Franco, che l'ha fatto a me, quello vero, bellissimo, morbidissimo, che va bene, quello non entra nel clip, ci vuole quello più fine, che ce l'ha Gianfranco, quello lì, capito? Avanti break. Sono Frank, portateli a piedi, mi sentite? Non ho capito, sei Frank, portateli a piedi. Importateli a piedi. Ho capito, importateli a piedi, molto bene. Buonasera, ben ascoltato Claudio Sparviero da Sassari. Avanti Natalino. Ecco, a Natalino Alfa 1 da Sassari. Posso fare un regolativo? Dimmi. Ieri No, ho capito niente. Perché non riprende e gli sei passato sopra. Là. Quando hai mollato stava parlando. No, scusate, c'è la batteria un po' scarica. Ok, c'è la batteria un po' scarica adesso. Sì, anche io sono scarico, adesso vado a bere, aspetta un attimo. Cappa. Natalino, tu scarico, sì? Io stavo bevendo, ero scarico anch'io. Bravo, bravo. Bevi, fa bene. Chi sei, Cristian? Padre Roger. Ciao, Cristian, dove sei? A casa, dopo tanto, ho attaccato la macchina in macchina. Ah, cappa. Come ti arrivo lì? Perché io ho piazzato l'antenna nuova e ti sento lo stesso. Prima c'avevo quell'antenna capottata. Esci che un amore come segnale, perfetto. Cappa, e sono col 3009 con l'omologato e il microfono da palmo. Esci benissimo, guarda. In che zona ti trovi, per saperlo, Cristian? Sulla Budi Budi. Ah, cappa. Allora, per giunta, sono di fronte a casa mia. Vedo, anche i fuochi, quando li fanno. Ok, andrà bene mera. Di nuovo la macchina in macchina, va. Oh signore, un attimo che devo andare al QTH piccolino. Vai. Break, attenzione, ho cambiato la batteria. Natalino, break. Ora, break sulla frequenza. 200 euro di baracchine, non c'è nessuno. E chi chiama su 10? Avanti col tutto. Dove sono tutti i rugani? Sotto piatto. C'è poco gente fischiando. Parlate invece di fischiare. I cani liberi ci sono. E dove sono invece tutti i rugani? Gianfra. Ho cambiato la batteria. Gianfra, ci sei? Sono arrivato ora. Là. Cappa, l'hai trovato? No, lo prendo per vedere se ci sono cavi abbastanza, se mi ricordavo bene, se soprattutto se entrano dentro la clip. Poi c'è un caldo che è qualcosa di pauroso, caldo proprio malato, non, per queste condizioni penso neanche al mare va bene, ma che non esci alle 7:30, anche qualche tardi. Auguro, non uscire presto, molto presto, vabbè dai, fai quello che stai facendo là, se non anche quelli che si occupano tanto, buietti, bruciati, venti. Come al solito, domani che ascolto, già fra quando sei pronto chiamami anche a 5:25, non c'è problema. Buonasera. Ciao Gianni, ciao. Ti lascio in compagnia di questi che fischiano. Guido che fa veda, lo rilanci, non riprende, mi sono già stufato. Dai Gianfra, fai questa cosa e poi chiamami in VHF, ciao. Cappa, confermo, ciao a tutti. Ciao Cla. Ciao Cri, no, oggi con Battaglione, ma ci sentiamo, ciao. Ma senti uno fischiare, ma... Ciao Cri, ci sentiamo, dai, rimango in ascolto e me ne passo in VHF, ciao. Allora, dopo, Gianni c'è anche? Non lo so, chiama, io sto abbassando il volume qua. Attenzione, c'è ancora sul 10? Attenzione 10? Io sto chiamando ma nessuno mi risponde. Chi sei da lì? Per caso. Avanti fischio! Sì, avanti. Buonasera Doppio Room, mi ricevi? Sì, con chi ho l'onore di parlare? Sono Frank. Ciao Frank, ho ben sentito, là. Dove ti trovi Frank? Sempre il solito posto, QTH Campagnolo. Zona Montebianchino mi pare. Bidriassi sono. Cosa? Agli Bidriassi. Ah, agli Bidriassi, è vero, là. Scusami, stiamo confondendo con un altro. E ho capito, dai, nella zona di Campania. Vicino all'hotel, sì, all'albergo. Sì, degli uomini. E ho capito, lì c'è anche... come si chiama? C'è anche Eugenio lì in quella zona. Già. Buongiorno, avanti, buonasera. Gianni. Non c'è abbastanza bene l'amico, a Franco. Cristian, ti stavo pensando all'altro giorno, non l'ho più sentito a Cristian. Che fine ha fatto? Problemi tecnici. ero bloccato a casa con sciatica e nel disco. Ma non me ne parlare di dolori, che io se lo con dolore al femore non riesco a stare, non riesco manco a camminare. E poi giudizio, guarda. E ma il fatto che il mio sicuramente vuole operato, come ho operato l'altra gamba devo operare anche questo. Mi auguro di no, però mi pare che sia così. C'è l'amico da Libidriati, vediamo forse ti ascolta. Attenzione Frank. No, stai uscendo tutto a tratti. Sì, si sta uscendo ben male. Metti in moto, se no esci tutto a tratti. Cosa fatti Cristian? Io tu lo sentivo abbastanza bene, adesso non lo sento più quasi. La batteria, sta uscendo con la batteria di macchina, capito? Comunque da Libidriazzi. Non sto uscendo io, con la batteria macchina lo mattessimi. Ma a casa sì. Io sono in macchina. Vabbè. Invece tra quella batteria tu la fai andare sempre perché la macchina la usi e lui magari ce la ferma, la usa solo per questo. Allora, questa macchina è dotata di una batteria da 45 ampere e la mia da 60 ampere. Vabbè. Comunque, se la batteria è buona, io per dire usavo, è presente quel booster che serve per mettere in moto la macchina quando la batteria è scarica, usavo quello per modulare un periodo, perché non ero sicuro se mi riprendevo tutto o no, avevo mollato, e praticamente uscivo con quel booster e uscivo bene. Io ho fatto i collegamenti dalla batteria diretta con la macchina e funzionava bene, non ho problemi. Ma tu sei dentro casa? Sono le piazzate sedute in macchina. E non c'è caldo? No, qui c'è l'ombra adesso. Aspetta, avevo un caldo pure, mamma mia. Io sto temendo a uscire col cane, infatti uscirò più tardi oggi perché c'è troppo caldo. Il fatto che deve anche andare di corpo perché stamattina non è andato, quindi lo devo portare sì, almeno alle 8:30. E lo dice a me che sono stamattina andato già tanto, che mi è venuta la smania di farmi l'orto quest'anno. È venuta la smania? Di farmi l'orto di nuovo. Kappa. Vabbè. Quindi non vedo che c'è sto malato. Quest'anno è venuta di nuovo il pallino di farmi la campagna tipo come Dio comanda, un giardino enorme, è fatto bene. E anche qualche cosa da zappizzare, lattuga, questa cosa non è pianta. A me piatto zucchine, pomodori, roba così, piatto di stagione per casa, capito? Infatti, se c'è il posto già è bello a farlo, da sera a tardi le naffi. Ho già fatto il posto, è già pronto. Ho dopo domani prendo le piantine e sto già piantando. Ma semi ho visto che ne vengono anche da ditta, lo sa. Ma piantine proprio metto adesso, cioè le piante proprio. Ah, piante, sì, ho capito. Adesso a me mi è spuntata questa pianta nel vaso che non mi ricordavo manco più di avere. Deve essere che è rimasto il bulbo e praticamente mi sta spuntando questa pianta che fa le calle gialle, un bel bella. Appena finito sono pronto. Ti ho preso Franco. Che cosa Frank? Mi stamattina ero in zona Monte Bianchino io. In zona eri? Monte Bianchino, Osilo. Ah? Sì, so dove è Monte Bianco. E come mai? Perché mi sono rotto, cazzo, la macchina, mettevo l'acqua e non c'era più. Così, tre giorni, non so capire cos'era il problema, ed era un tubo sotto alla valvola GR che era bucato. E quindi ti hai comprato il pezzo e te l'hai piazzato? Sì, per le mani me l'ha messo il meccanico. Ah. Perché a Monte Bianchino meccanici? Era sul cucutolo di Usilo. Ah, ho capito. E vai così lontano, con tutti i meccanici bisogna essere bravi. Ma lui, telemando. Per me è telemando. Ma vabbè, ognuno ha il suo. Io ho Franco Solina, sei bravissimo. Telemando è proprio lo stesso, è un amico, è fatto la macchina e me l'ha fatta subito. Ha dovuto starci un giorno per smontare mezza macchina, per togliere il tubo, però non lo faccio. E quindi non stai più lavorando qui? Sono fermo a casa del fratello maggiore. Ma è malattia? No, sono fermo a casa del fratello maggiore perché non maschera non lo c'è più. Magari gli sforzi che hai fatto ti hanno aggabbato. È molto probabile. E quindi cosa devi fare? Tu dicendo ritorno, se sono da Pelera faccio Pelera al limite, ma se no faccio infiltrazione, adesso ci vedrà. Che è Oristano? Il mio topico è Oristano. Ero io. Io l'ho fatta senza l'operazione alla gamba, mi hanno messo la protesi e ho acquistato al 100%, ne dicono tante di cose, poi se va male dicono che sono macellai, se ti va bene dicono che sono bravi. Io ci ho tentato e mi è andata bene. Il mio topedico è Oristano, ma lui fa operare anche a Sassari. Ah, lui opera a Sassari? Allora, il mio medico, il mio topedico è il primario di una clinica Oristano. Però c'è amici a Sassari che operano in fare da loro, capito? A pagamento, no? Di solito vabbè, a pagamento. Ma io vado all'ospedale ortopedici, ce ne sono tanti, bravi. Ce ne sono tanti. C'era fatta che ce l'hanno trasferito, a Ozzini mi pare. Ti spiego in verticale dopo, quando ci vediamo. C'era fatta che dice che era bravo e l'hanno trasferito lì a Ozzini. Ma ce ne sono diversi bravi. Ce n'era uno ha operato a me, quello lì mi ha preso il casacuore, io stavo aspettando e mi ha chiamato subito, mi ha fatto fare tutto subito, 12 giorni io ero a casa. Questo qui è veramente, questo è il dottore sanitario di Santa Bambina Oristano del Rimedio, centro di riabilitazione. Vabbè. Vedi tu, c'è Alghero, ce ne sono bravi Alghero, Cozzieri, ce ne sono diversi posti dove fanno bene le cose. Oristano è lontano, capi bene a Oristano a trovare? No, io scendo a Oristano a visitarmi, perché il mio medico è giù a Oristano per visitarmi. Però se ne può operare, può operare a Sassa il mio medico. Ah, ecco. Vabbè. Io l'ho fatto crescere vicino a casa, capito? Perché se no se vai lontano chi ci viene? Guarda, ho operato lui al ginocchio nel 2003 mi sembra, che era l'equipe di Fabriciani. Cosa, menisco? Yes, è crociato. Anche io sono stato operato, menisco e crociato. Sono caduto dentro un bis di anguria. E invece a me è stata una scivolata in moto a 10 all'ora. No, io stavo scaricando le angurie, praticamente c'era la commessa che le stavo lanciando per metterle nell'altro bis che c'era nel negozio e le metteva dentro, poi ho svuotato il bis che c'era sul camion e lo stavo scendendo perché lo dovevo lasciare e per non scendere di colpo mi sono abbassato, io lei non mi ha visto, ha tirato il bis e cazzo sono guardato dritto. Succede, infatti, guarda, anche a me è successo in una piscina. Purtroppo io lavoro c'è sui effetti collaterali, capito? A me la gamba mi faceva come un cambio sboccolato, se ne andava una base là. Lo so, ma so che guarda, molto probabile, non sarà adesso, ma tra 2-3 anni io sono di protesi al ginocchio, ma spero di quello è già presente fatto. Ma perché? Non è detto, scusa, ti si può trasformare in artrosi, però non penso che ci voglia la protesi. A me me l'hanno lasciato un pezzo, non me l'hanno tolto tutto, quella tipo spugnetta che c'è, il menisco. Ce l'hanno tolto la parte che era spappolata e l'altra me l'hanno lasciata. No, io menisco non l'avevo proprio più, il mio menisco era veramente distrutto, ma era tutto ricostruito, 4 ore d'operazione. Anche io, così. Però poi io l'ho fatto ad Alghero, menisco, me l'aveva fatto Pudda, che adesso non c'è più. La mattina sono entrato a operarmi, la sera mi hanno provato a far alzare, stavo per svenire. Allora mi hanno lasciato un altro po', poi come mi sono ripreso mi hanno fatto andare via, mi hanno dimesso. Invece a me mi hanno tenuto, diciamo, 3 giorni di ricoverato, perché mi hanno operato Mulas Fabriciano, posizione di operato è per fare tutto il drenaggio, non per altro. Tu la schiena, quello alto alto magro. Esatto, che è andata meglio vita. Ha avuto un incidente in moto, mi pare, no? Non lo so, ma è andata meglio vita. Non so se di cosa siamo lì, cosa siamo. Gaba gaba, e me ne ricordo quelli vecchi che c'erano prima. Ma anche adesso già va bene, l'ortopedia a Sassari ci sono tutti i dottori nuovi, capito? Non sono più quelli di prima che criticavano e facevano, ce ne sono molti nuovi. Ma se io sono entrato, diciamo, quanto sarà? Con 15 anni fa in chirurgia, ho preso l'operato a Elena inguinale, e tu vuoi che la fama l'appendicite? Figurati. Cappa cappa, eia. Anche tu ne hai subito operazioni? Sì, abbastanza, guarda. E anche io ne ho avuto abbastanza, 2, 3, 4, 5, che me ricordi io 5. Infatti ho preso una decisione più bestiale. Esco come ti piace, ho fatto una questione di verità. Allora scusami, sì, non 5. Ho preso una decisione più pratica, adesso vi faccio tutti i documenti e faccio questione di validità adesso. Non lo so se te la danno le validità per il menisco. Menisco, la gamba fratturata in tre parti, la schiena lesionata, una tendinite al braccio, altro voi. Non per me, no, sono uomini difficili queste cose. Io ho dovuto fare la visita due volte, è un casino. Per darmela ho dovuto dimostrare tutto, fare i documenti, andare dall'ortopedico, farmi fare la relazione, ce ne vogliono poche di cose. Lo so, ma per non c'è problemi, è tranquillo. Allora attenta, te la vai, io ho un patronato e che devi fare la domanda. Guarda, il mio medico non c'è fare, il mio medico non c'è fare anche. Il medico deve fare l'SS3 per fare la domanda. Ti scrive tutto ciò che hai. Tu gli porti i documenti al tuo medico e ti fa l'SS3 e ti scrive tutto ciò che hai. Lo so, ho fatto la poca mamma all'accompagnamento. Mi devo dare la risposta. È stato novembre, mi sa, novembre, che era la stessa mamma dell'accompagnamento. Io l'ho fatta il primo di questo mese ho fatto la domanda, adesso mi dovrebbero chiamare. Mamma ci ha fatto anche la visita, e adesso sto aspettando la risposta se gli hanno approvato o no. Quello gli danno in 15 giorni. Dopo 15 giorni la risposta. Già va bene. Solo che adesso sono un po' più resti a dare le pensioni, le cose, sono tutti particolari, che trovano problemi. Ogni tanto sono un po' resti, capito? Hai fatto invece i medici che conosci i medici. A me per dire me l'hanno bocciata, l'avevo già fatta questa domanda di pensione di vecchiaia, me l'hanno bocciata e mi hanno detto che praticamente riconoscevano l'invalidità, però che la pensione non mi aspettava ancora, dovevo aspettare al 1° di agosto. Sì, lo fanno. E quindi l'ho dovuta rifare tutto da capo, ripagare le 63 50 euro, fare i documenti, di fatto occupi, guarda. Tua mamma fa la visita, sono non fiscali, tra fiscali. Lo so che sono così. Adesso se uno sanno già, io è già 3 anni che vado via a fare la visita perché ho l'invalidità e quindi devo ogni 3 anni devo fare la visita, ma lo usate come ti so. Quando scade il tempo, dammi direttamente la pensione e basta, punto, finito. Purtroppo la vita di noi poveri. Sì. E chi non è povero lo sta diventando adesso con tutti questi aumenti, tutte queste cose, guarda. Per carità. Non si può più comprare a nulla. Questo mese ho dovuto ritirare 400 euro così per fare la spesa, oltre gli altri che ho messo. Ma se sono andato a prendere due trottate stamattina dello spin. Ma che cagate! Fate 40 euro, cioè io ho fatto, ma va bene, cioè. Però così, fa fresco. 40, 40 sono poche, io ogni volta che vado sono 60, 65, quando non sono 100. Io supero anche 110 pure alle volte. Ma lo spino adesso è aumentato come gli altri pusti. È tutto aumentato, è tutto. E vabbè. Se non si mettono d'accordo succede un casino. No, sono tutte a schifio. Beh già. Qui. Come arrivo? Bene. Con chi sì? Sono con Antonio, con Cristian. Cristian, ciao, come ti arriva a te? Più bene, c'hai i picchi di 9.30. Addirittura. Dove sei? Sono a Budibuddi. Ah, come tu mi arrivi più basso però? Beh, io sono seduto in macchina, non a campagna. Ah, ho capito. Ma anch'io sono zona San Camillo, quindi siamo lì. Beh, diciamo che io sono di fronte a casa mia, sono sino di fronte a casa. Gianni, te ne ha messa bene. Comunque, Gianni, l'ho già ordinata, Arriverà in questi giorni. Devo fare il printo fuori, però devo fare. E metto 8 metri di palo, non mi frega niente, per un'antenna. E cosa hai ordinato? È quella che c'ha Franco, uguale. Ah, ho capito. Vabbè, già va bene con l'antenna. Se... sì, va bene, non devi dare molti vatti perché non tiene più di tanto, però già tiene. Già va bene come antenna. Quella lì è la mia, quella che c'ha Franco. E comunque ne regge 1000, ma a me non mi interessano, dai, già va bene. E da dove l'hai ordinata? Da internet? Yes, no, l'ha fatto tutto mio figlio, ha fatto. E adesso cosa stai usando come radio? Il president Zachary, sì. Esce bene, è forte la radio. Quello 80 canali, 40 più schiacci l'HI Love, l'ho da modifica, ho 80 canali, 40 più 40. Stazione base sempre. Ascolto lì, microfono cosa c'ha? Microfono suo originale. Va bene, è vero qui. Sì, va benissimo, la radio è pulitissima. E lo Spinotto è uno di quei randaggi fei antichi, baccaredai. Non è come i Spinotti che usiamo noi già, è tutto diverso, infatti neanche il TAR ne ha provato ad attaccare, ora pure l'espandere 500, nulla. Vabbè, adesso modelliamo con questo, poi aprirò l'armadio a muro e cambierò baracchino, poi vediamo quando ne ho voglia. Asco, cosa c'ha di quegli Spinotti senza ghiera, quelli che sono in casa? No, è uno Spinotto strano, c'ha... è tutto quasi metallo, si avvita addirittura. Sì, si avvita al baracchino, è in casso, appena guarda un attimino lo stacco. Beh, gli altri lo sono così, si attacca al baracchino e poi si avvita, facciamo tutti la ghiera, quelli di adesso sono così. Allora, è stesso femmina, quattro fori, però è tutto diverso, è tutto in metallo, c'è la cosa che gira e si avvita al baracchino. No, non ti sto capendo, vabbè, comunque... già esce bene, fregate, non ti giamma nulla, già va bene. No, lascio questo qua. Ok. Questa è base, è vero? Yes. Ma adesso si sente bene, avanti qui. No, bene come radio, ma stai uno Spinotto, che sia così, ma... vabbè, mia, sei pure, ma... E questo avrà, penso, 30 anni o 40 anni, baracchino. Comunque è l'ultimo stato, io ho tutte le stazioni in base. Ma già funziona bene, dai. Io adesso mi ho 3009, ho preso il microfono amplificato, va benissimo. E qui ho le altre Cobra, ho le Rui, Savuglia. Un secondo che mi sposto a girare patate e carne. Io ho solo uno in macchina, avete quello che ho. Tu che cosa c'è qui? 78 plus. Già, Natalino qua è. No, non ho sentito per nulla Natalino io. Ciao. Ciao già, ciao, ti buonasera. Ma te l'ho sentito, stavo andando a Cutaca Piccolina e poi non sei più sentito. Cosa? Alla Cutaca Piccolina e poi non sei più entrato. Ci stai ascoltando perché è 5.25? Molto probabile. Aspetta che non ho capito niente, che ho abbassato. Cosa hai detto qui? Ho parlato a Cucciaca Piccolino e tu non sei più entrato. Ah, ho capito, no, no. Volevo sapere da Natalia se ascoltava, se stava ascoltando a 5.25. Va bene, buonasera a tutti comunque, vai. Rimango in ascolto che sto facendo questione WhatsApp. Ci sentiamo dopo, Jeff. Ciao, ciao. Ciao, a me, sono entrato. Adesso ti sento, Tony, cosa hai fatto? Io? Niente. L'altro giorno perché non ti sentivo? Neanche io sentivo a te, boh, non lo so, sarà... l'atmosfera, il caldo, cosa ne c'è? Infatti già me la poco che giro propagazione, forse è quello. Non lo so, grazie, comunque ciao, ben sentito. Ciao anche a te, avevi benissimo, 5-9 più, ultima radio. Dai, ci sentiamo dopo, ci siete qua, che stavo facendo delle prove con Gianfranco. Mi sta preparando un carretto, cazzo, ci avevo il carretto della Donis, due ragazzi più, e sono ordinatissimo, ce li ho tutti i carretti, cazzo, mi manca proprio quello, mangiatomelo. Succede, quando cerchi una cosa è difficile trovarla, capita anche a me, eppure so cose che succedono. Comunque, cla, ho fatto una bella piattaforma in giardino, ho messo la casetta, tutta l'attrezzatura dentro, è tutta un'altra cosa adesso. Vabbè, ma tu le sai fare quello, ma tu te l'hai fatta, come mi hai fatto di là? Allora, no, la casetta l'ho ordinata da fuori, però ho fatto la piattaforma 3 metri per 2, alta 12 centimetri, con tanto di ghiaia, sabbia, cemento e rete elettrosaldata. L'ho chiesto amico mio se me lo faceva, dice all'impasto come deve fare, nella cariola, no, mi lero, va fa culo. Ho preso, me lo so fatto io, ho fatto 23 impasti, ho posumato 55 sacchi tra ghiaia, sabbia e cemento. Ti dirò, è uscito un bombo. Ho detto, sono tutti pazzi. Se io per fare il tipo quel basamento lì, io ce l'ho un pezzo, però lo volevo allungare, no? Per poi mettere i piantoni del gazebo estivo, no? Con i tirafondi, d'inverno lo togli, poi d'estate si lisci i piantoni con i tirafondi avviti, così rimane fermo. Cazzo, mi hanno chiesto 500 euro una giovata, ma non perché per i soldi, no? Cazzo, ci vogliono aiutandoti io. Io ho anche la betoniera, perché prendo quella di cantiere che c'è ancora. Quindi in una mezza mattinata, cazzo, avremmo fatto tutto 500 euro, ma io non ti do 500 euro a te, non una giovata. La betoniera, cosa vuoi di più? Ma ci vado un culo, io ho impastato con la zappetta dentro la cariola, 2-3 impasti al giorno, poi mi riposavo la mattina, mi sono preso, poi la sera, quando c'era fresco, altri 2-3 impasti, e me la sono fatto, cla, piano piano. Ripeto, è per la schiena e non per altro, se no cazzo non avrei chiesto a nessuno. Comunque, ho provato e l'ex mia collega ho chiesto, e il passo come lo fai? Ha detto mia, te lo ammalo, ammalo, mi lero. No, lascia aperto Giuseppe, fregatene, c'è proprio zio. Poi quando l'ho fatto, gli ho fatto vedere, bravo, bravo, però mi lero a me, vai, fatti un brodo, vai. Ah sì, io non lo sapevo, pensavoci avevi rinunciato, se no chiamavi un motocarro, un amico, ti caricavi la betomiera, quando avevi finito me la restituivi. Tanto qua io c'ho carta bianca, l'impresario ha lasciato tutto, tutto costruito, e ha detto, quando mi serve qualcosa di prenderla, quindi non avevo problemi, capito? Però non sapevo niente. Babbo, hai fatto bene, dai, hai fatto benissimo a farlo. Ok, dai, vi lascio 5 minuti, già ci sentiamo dopo. Gianni, riprenditi e fai girare. Ma Gianni non riprende, mi adesso vado a prendere il telefono, ti mando la foto di quello che ho fatto. Poi c'ho tutto quanto i pizzi piano piano quando impastavo e gettavo, ho fatto tutte le foto dall'inizio fino alla fine. Poi ti mando il finito che ho tutto ben aggiustato e alla fine ho messo il contorno della ghiaia bianca piccolissima. Dai, intanto io giro un attimino quello che sto cucinando. Dietro subito, mi prendi Cristian. Ci sono, mi avete lasciato il tempo per prendere il microfono. Già sei Jack lo squartatore. Avanti Cristian. Gianni, forse sono io veloce, vai, mandami la foto, voglio vedere questa casetta, può essere interessante anche per me. Riprendi già, scusa, vai, ci sentiamo dopo. Eia, Cristian, ci sei? Ci sono, ci sono. E allora, al mare, andando sta? Magari. Ma al sole ti fa bene, mi se stai al sole, per i dolori ti fa bene. No, lascia stare, i miei dolori sono abbastanza lancinanti, dai. E anche i miei, come ti muore anche in terra, ui. Ma però io lo stesso, e poi sto male, c'è di quello almeno. Oh, mi devo decidere io a farmi un'operazione, boom, basta. Tanto. Non c'è rimedio qua, non c'è rimedio. Ho provato di tutto, l'unica cosa che c'è da fare è l'acido ianurico, non so se tu l'hai provato. No, ma prima quello proverò. Quello lì ti tappa un po', ti allunga il periodo per operarti, dai. Però non è che faccia più di tanto. Adesso vediamo. Antoni, mangiato? Eccomi qua. Mangiando sta? No, aspetto il gas, è già cotto, non ho aspettato il cenno. Niente, ho mandato una foto a Claudio, ho mandato. Ah, cava. Ma c'è solo un baffetto, forse buccia l'aspetto, cosa lui. correggiamo i dati. Io sto ascoltando anche là, sto ascoltando uno e l'altro. Cioè anche là? In HF. Ah. Ma TMR? No, no. Che apparato c'hai tu? Perché Vittore. Ah, no, io ho trovato nell'armadio che ho fatto. Ah. No, io ogni tanto ascolto nel monitor dei radioamatori. E Cristian che prima ha fatto? Ah, non ti sentivo. Sto prendendo la macchina, anzi, qui sto prendendo la macchina. Ma sono in macchina moduli tu? Adesso sì. Mi tirate il nonno in casa che stai più meglio che... Adesso mi come anche non ho sentito di casa mia. Chiappa. Oh, a Giomai Marco si muove, poco a poco si muove col TM1000, oh Gianni. Cappa, io dico che segnale, come ti sta arrivando, Tony? Questo è un po' avaro, è 9.5, ma sei fatto scala mio. Ah, avaro c'è lo limite. E non c'è cosa per regolarlo. Ascolta, io non ne apro, non ne tocco, c'è la biglia luce, va bene così. Non ti sento bene, va bene. No, per dire, nel Roy se c'è un tastino, premendo il tastino ti darà il segnale giusto. Se non lo premi ti va tutto a fondo scala. E dov'è questo tastino? Nel Roy, io non lo so se tu ce l'hai. Capito? Perché quelli antichi lo facevano solitamente all'esterno. Per noi se c'è. No, questo qua devi aprirlo, toccare cosa, no, la capiti. Va bene così. E il Galaxy invece è tutto a posto, arriva a segnali perfetti, giusti. Questo no, questo è così. E vabbè, da quando l'ha giubileato. Questo mi è arrivato da fuori, mi è arrivato, ho pagato 100 euro. E non sapevo, pensavo che erano 40 canali, invece sono 80, meglio così. Vabbè. Ma non conviene più prendere apparecchi di una certa era, perché tanto hanno tutti i componenti che sono stati usurati, eccetera, almeno che siano di qualche collezionista che siano in vetrina, se no sono super sfruttati e ti batti di subito. Giacomo, per me un attimino, dai. Ehi, a qui. Ok. Vabbè, io ce l'ho e me le tengo, mi piacciono, ho capito. E funzionano tutti, poi. Quando mi stufferò, e vedo tutto. Sì, cosa stai a vedere, a ricomprare? L'avevi già fatta con la cazzata e vedere tutto, la paghi via intorno, la roba. No, adesso neanche di più ne ho, perché ne ho comprato un'altra, capito? Un'altra ancora? No, adesso da poco ne ho comprato un'altra, quindi adesso un bel po' di roba antiquata, ma già va bene, dai. La collezione, va. Ehi, è bellezza, dai, già va bene. Ma fagli girare, ogni tanto le metti uno e le fai girare di modo che non si scarichino i condensatori. Beh, i condensatori. Allora, tra sintonizzati, caramba. Io questo che sto usando è l'Intec. È l'Intec, è quello base. Aspetta che spiego la luce della cappa, un attimino già. Poi, eccomi. È copiato, già ti ho detto, è l'Intec base questo qua, questo che sto usando adesso. C'è stato bene come radio tutto quanto. Cappa. Va bene, sì. Io lo posso usare sia a 12 che a 220. Adesso lo sto usando a 220 per dire. Se voglio lo commuto e lo uso con l'alimentatore. Questo lo usando io a 220 già. Quindi. Guarda, ieri sono andato lì in Percina, come cacchio si chiama. Girato ho trovato questa specie di fontanella che cambia la luce a tanti colori, c'è la pompa dell'acqua, sale l'acqua, poi scende, va da una parte all'altra, a casa mediale. Ho preso e me lo sono comprato. 4 con 35 euro, via, preso, già messo a casa, trovo bello. L'ho vista, sembra che scende l'acqua, ma non è, sembra sospesa in alto, no? No, l'acqua scende veramente perché c'è la pompa, aspira l'acqua, porta sopra, poi scende in tante scodelle e arriva giù, e poi c'è un ciclo praticamente. E allora c'è il rubinetto sospeso in alto, che sembra sospeso nell'aria. No, lì, è molto tipo quello che hai visto tu. Ah, boh, non lo so, io ho visto quella lì, l'ho vista a Bricocina. Bricocina, e lì sono stato io, aspettami, io ho mandato il video, ho fatto, non ho fatto la foto, che se vuoi vedere i tanti colori che fa mettere l'acqua, capito? Aspetta, l'ho fatto, ma da cazzo. C'è qualcuno sul 10? Chi è? Già, te l'ho mandato, eh. Scusami che ho spento l'altra radio, dimmi, avanti. Ciao Gianni, come va? Come sei? C'è Tonino e anche che cos'è Cristo. Ah, salutoni a tutti e tre, salutoni da parte mia, a te, a Tonino e a Cristian, se prendi pure già. Sì, ciao anche a te, dai. Avanti Cristian, ci sei? Cristian si è bloccato, tu? Ti ho mandato la foto, l'hai visto? No, ancora non l'ha aperto, aspetta che guarda che si è caricato il telefono. No, ti ho mandato il video veramente, non la foto. Per quel video l'ho mandato a mia sorella, l'ho mandato, capito? E beh, non ne prende nessuno? Se non va nessuno. Ah, non va nessuno. Vabbè, allora è giusto così. Non è quella che dico io, Tony. Quella che dico io, c'era il rubinetto che risultava, sembrava sospeso nell'aria e l'acqua che scendeva dal rubinetto. Però c'era il trucco, c'era una pompa dietro trasparente, non si vedeva, sembrava, guarda, sospeso in aria il rubinetto. Ma io te l'ho detto, non è quella che ho io. Ci sono tanti tipi, capito? A me è piaciuto questo, mi sono preso questo. Ce ne sono anche da 50 a 5 euro, quelle più grandi. Poi sono piccoline che da 15 euro, ma a me quelle piccoline non mi piacciono. Vanno bene per i locali, mettere nei locali queste cose qua. Solo che sprecano luce in più. E cosa consuma già? È un piccolo LED e basta. A me piace quello messo sotto il televisore quello grande, state pure, ci sono attaccato a parete e sotto le mobile c'ho, grazie a Dio, quello messo con lui ci sta così bene, che poi la notte quando mi ricorico lo stacco. E poi ho preso un'altra cosa per le zanzare, si illumina, ma carino, mi bianco, una faricetta e c'ha le luci blu dentro, tipo un buco c'è, ma non so se è bestiale, per qualsiasi tipo di moscerino. E a chi appartiene? Ma io veramente qua in camera non ne vedo neanche uno. E non perché ce l'ha né dove, non è me. Ma che rintipica, dove vedi questa cosa? No, no, no, no, io non che ti ammazza lì. Ciao ragazzi, via. E vabbè. Mia da te, dai, giochini ti ha preso. E diciamo, ma io sono con il travagliente più avanti che sono con in pensione che quando travagliavo. Mi manca il lavoro, vedi? Certo non lavorare, lavoro di meno. Lo so, ma adesso il tempo lo devi occupare. In qualche modo lo devi occupare, no? Ma te l'avevo detto cosa hanno fatto qua? Con la parameccanica. E ho dovuto rifare tutto a capo. Oggi te non baciano che ci hai giocato, ancora. Adesso devo mettere soltanto i paletti sopra i cementati, appunto. Adesso devo soltanto mettere quella terra verde, quella tipo soffa, quella ombreggiante, e buonanotte. Ne ho 35 metri, la moglie già abbassa, alto 2 metri. Ma cos'è il nylon quella lì, vero? Il nylon? È un tipo. Già va bene. Avanti giù. Ok. Di cosa stavate parlando? Questo affare colorato che fa la luce colorata. Di cosa state parlando, Gianni? Allora, da Bricocina vennero queste fontanelle dove scende l'acqua, ricicla l'acqua, allora sta sempre girando, a circuito chiuso rimane, dai, capito? E fa tanti colori, eccetera, è bellina da mettere come soprammobile. Ah, ok, sì, sono cose belle quelle, sì, in effetti. No, io avevo visto qualcosa del genere, però non era una fontanella, era un albero che si illuminava, a un certo momento si vedeva con tutto pieno di foglie, proprio belli, verdi, e poi nel secondo tempo il frutto che dava l'albero stesso, insomma, a ciclo continuo, così, no? Un po' le foglie e un po' poi con l'albero col frutto. E Bricocina ne ha tanti, io ne ho visto uno che c'è il rubinetto che rimane, sembra sospeso nell'aria, c'è una pompa trasparente e non si vede nemmeno, e sembra sospeso nell'aria giù, e scende l'acqua, capito? In continuazione, una cosa che se tu non la guardi da vicino attentamente non te ne accorgi nemmeno da lontano. È bello, no, sono cose belle, mi piacciono, queste cose così mi piacciono a me, veramente, sono cose, vabbè qua non è che si usano molto, forse fuori dalla Sardegna magari ne usano di più queste cose, ma noi non più di tanto. Avanti Tonino. A me piace, le ho prese, le compro giù, e me l'ho messo. Poi se gli altri non li piacciono troppo rimane. A me quando vedo cose carine che mi piacciono me le compro, capito? È una cosa nuova, una novità, diciamo, non è la solita cosa che ha un soprammobile, no, questo fa da soprammobile, e anche carino perché vedi la luce che cambia colore, ha tantissimi colori. E poi